Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. A due mesi dalla fine del lockdown e dalla ripresa delle attività, le imprese di trasporto e logistica riflettono sulle conseguenze delle chiusure forzate e sulle prospettive per il settore alle prese con una serie di cambiamenti. La pandemia di Covid-19 avrà infatti un impatto prolungato sulla logistica e sugli operatori, che dovranno imparare a convivere con nuovi metodi di lavoro. Smart working, e-commerce, dispositivi di protezione individuale sono diventate ormai parole di uso comune che rappresentano un nuovo modo di operare. Secondo i risultati di un'indagine realizzata da Randstad Research, sarà necessario quindi investire innanzitutto sul capitale umano, colmando il gap digitale e avviare trasformazioni su protocolli di lavoro e sulle norme di sicurezza, aumentando trasparenza e controlli nelle varie fasi della filiera logistica. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che ha avuto delle pesantissime ripercussioni ovviamente dalla vicenda Covid-19 e ancora oggi soffre di una ripresa ancora stentata con delle imprese che hanno difficoltà a ripartire. Un settore che è stato analizzato in un recente documento del Randstad Research, che ha fatto un po' il punto della situazione ed ha anche analizzato insieme con Confetra quali sono le problematiche urgenti da affrontare. Ne parliamo in compagnia del nostro ospite che è Daniele Fano, coordinatore del comitato scientifico del Randstad Research. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi e un saluto agli ascoltatori. Allora, cominciamo con analizzare che cosa è successo a questo settore in questi ultimi mesi e qual è stata la perdita per questo segmento così importante per l'economia italiana. Ricordiamo che trasporti e logistica rappresentano circa il 12% del nostro PIL. Se vuole, sintetizzo proprio in una frase. È il dramma, la maledizione di una filiera incompleta. Cioè di una filiera che si interrompe. Basta un 10% perché l'efficienza di tutta la filiera venga messa in questione. E questo, gli ascoltatori penso lo sappiano meglio di me, è il grosso problema. Quando abbiamo fatto l'indagine con Fetra, ovviamente uno dei primi problemi balzati agli occhi sono i trasportatori che riescono a fare i carichi in andata ma non riescono più magari a farlo al ritorno, e quindi questo è un problema attuale molto grave, ma anche un problema in prospettiva. Diciamo che anche il settimanale inglese L'Economist ha parlato del problema di un'economia che va al 90%. Il 90% sembra tanto, ma il 10% in meno incide tantissimo. Ecco, voi parlate di 7 direttrici che dovranno caratterizzare la trasformazione del settore. Analizziamole nel dettaglio. Norme di sicurezza. Beh, questo lo viviamo tutti i giorni. Ci sono nuovi protocolli del lavoro, nuove norme di sicurezza. Questi sono costi senza che ci siano dall'altra parte dei benefici come quando si fa un investimento. E questo è già un peso, ecco. Poi naturalmente c'è modo e modo di affrontare questi costi, però i costi ci sono. Fonti di approvvigionamento. Questa è una delle lezioni, insomma, che vale soprattutto a livello di chi è all'origine di una filiera della logistica. Bisogna diversificare, non ci si può fidare più di una soluzione che oggi su un committente e un principale, perché o su una fonte principale, perché ci possono essere degli intoppi. Quindi diversificare le fonti, diversificare i canali è una delle linee di nuova organizzazione che si stanno affacciando. Poi c'è un tema particolarmente importante per un settore, almeno per quanto riguarda l'autotrasporto, che è caratterizzato da una forte presenza di imprese artigiane, che è quello della collaborazione di filiera. Sono nati anche dei patti di rete proprio per rafforzare questo settore e renderlo strutturalmente più compatibile con l'Europa. Assolutamente. Diciamo che questo si collega al punto precedente, diciamo diversificare le fonti, ma anche al contempo avere in questa diversificazione trasparenza, controllo, sinergia, e questa è una strada obbligata. Diciamo, non si può più essere alla mercé dell'intoppo del granello di sabbia che si inserisce e blocca il processo. Quindi forme di collaborazione, sì, a livello nazionale, a livello europeo, entrare in rete, questo è estremamente importante. Certo. Questo, se vuole, porta al punto successivo di che lei forse voleva introdurre, cioè il problema dell'ulteriore sviluppo delle tecnologie digitali innovative, certo, dell'uso dei big data, perché poi si entra naturalmente in filiera con la conoscenza diretta della controparte, però poi oggi si opera soprattutto con gli strumenti digitali che vanno dalla pianificazione al controllo, al fatto di seguire poi la filiera in tutte le tappe, conoscere le merci trasportate. C'è un'infinità di elementi e un potenziale ancora inesplorato dei big data che questa crisi dovrebbe far toccare con mano ancora maggiormente. Ecco, accorpiamo poi alcuni punti. Uno interessante è quello legato alla sostenibilità, che ormai è la parola chiave del millennio. Sì, ma intanto diciamo una cosa che ha un impatto, che avrà un impatto indiretto sulla logistica, ma molto importante. Noi vediamo che questi investimenti nell'economia verde stanno effettivamente decollando, stanno dei piani molto molto importanti si stanno sviluppando. Vi faccio un esempio fuori dall'Italia, perché sennò ci diciamo sempre le stesse cose. La città di Parigi sta raddoppiando la rete metropolitana, ma non solo raddoppia la rete metropolitana, rivede completamente l'assetto urbano legato ai trasporti, e questo non può che avere un impatto positivo prima di tutto sulla logistica collegata a questi nuovi investimenti. Sono investimenti da 40 miliardi, insomma, non sono sciocchezze. E poi è il tutto in quel contesto digitale e di efficientamento digitale di cui abbiamo parlato prima. E quindi l'economia verde, l'economia circolare, queste cose vanno cavalcate per rafforzare la logistica. C'è poi un ruolo importante, e questo lo sottoscrivo sicuramente pienamente, che è quello del capitale umano, perché non dobbiamo mai dimenticare che tutto ruota sulla valorizzazione, attorno alla valorizzazione di questo capitale. Ecco, se mi permette, io andrei oltre il concetto di valorizzazione, nel senso che una volta, ma dico anche recentemente, si diceva va bene, prima investiamo nelle infrastrutture, nelle macchine e poi cerchiamo gli uomini e le donne che li facciano funzionare. Questo è un modo di pensare che va superato, perché viviamo nella società della conoscenza, quindi oggi capitale umano e capitale fisico vanno di pari passo. E certo, anche per un mondo di aziende piccole o medio piccole come quelle della logistica, questo può far paura, questo problema del capitale umano, dell'investire in nuove tecnologie. Però non è così difficile poi. Diciamo che è più facile di quanto si pensi, perché oggi la tecnologia costa poco e basta pensarci quando si fa un nuovo investimento o si intraprende una nuova strada. Certo. Fano, siamo in chiusura. Al di là di queste indicazioni legate a queste sette direttrici. Questo settore dovrà affrontare, così come tutti gli altri settori, compreso quello produttivo, una sfida nuova, la sfida di questo virus strisciante che in qualche modo comunque condizionerà la mobilità delle persone e la logistica nei prossimi mesi, almeno sicuramente da qui al prossimo anno. Sarà in grado la logistica italiana in questo caso di affrontare questa emergenza? Ma guardi, io penso proprio di sì, perché un nostro pregio è l'inventiva e la flessibilità. Bisogna avere in questa fase una grande capacità di adattamento. Un economista americano, Rogoff, ha detto che il virus è come l'invasione di alieni invisibili e che colpiscono quando meno ce l'aspettiamo. E purtroppo è così, però dobbiamo avere la capacità proprio di reazione e di adattamento a questa realtà. Certo. Bene, con questo auspicio termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Daniele Fano, coordinatore del comitato scientifico del Randstad Research. L'appuntamento con la trasmissione dedicata al mondo dei trasporti e della logistica torna come al solito sabato intorno alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.